GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La fase di stagnazione sta portando a un aumento delle richieste di cassa integrazione. Secondo gli ultimi dati INPS sfiorano gli 11 milioni e 400.000 ore di cassa integrazione autorizzata in Friuli Venezia Giulia in questo 2024. Oltre 40 anni di carriera in prima linea contro le pandemie, l'ultima il Covid, va in pensione il virologo Roberto Luzzati, professore e direttore delle malattie infettive dell'Ospedale Maggiore. Stretta sul traffico di valute al confine, la Guardia di Finanza fa emergere illeciti per 5 milioni e mezzo e multe per oltre 300.000 euro. Una panchina gialla in ricordo di Giulio Regeni nell'area Science Park di Trieste, questa mattina l'inaugurazione alla presenza dei genitori del giovane ricercatore. Anche l'Università di Trieste e l'OGS partecipano alla spedizione italiana in Antartide, team internazionale appena partito, obiettivo stimare l'innalzamento futuro del livello degli oceani. Dall'intelligenza artificiale alle discriminazioni, i temi che saranno affrontati nella terza edizione del Fake News Festival, la rassegna dedicata a smascherare le bufale che inizia oggi a Udine. Lo sport, basket, entrambe vittoriose le squadre di A2, a Udine batte Forlì, Cividale vince a Piacenza. Ancora buongiorno dalla Razzani e da Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. È stata presentata questa mattina in quinta commissione regionale la proposta di legge firmata da tutte le consigliere per una nuova commissione per le pari opportunità tra uomo e donna. Avrà funzioni di consulenza ma anche di vigilanza, interagirà con tutte le istituzioni pubbliche della regione, anche quelle di carattere economico, farà promozione di azioni positive per rendere più semplice l'accesso al lavoro e all'opportunità di qualificazione professionale delle donne. Sono i caratteri della nuova commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, almeno secondo quanto prevede il testo della proposta di legge numero 30 presentata in consiglio regionale durante la seduta della quinta commissione permanente. Un testo firmato da tutte le consigliere della commissione, della maggioranza e della minoranza, in nome di una visione condivisa della questione della parità femminile. La nuova commissione, per come è stata disegnata, assumerebbe un ruolo potenziato, si allarga la platea degli organi istituzionali che può consultare e soprattutto può intervenire con osservazioni e indicazioni al Consiglio e alla Giunta regionale per adeguare la legislazione e anche le proposte di legge alle necessità di parità tra uomini e donne. Non solo, rispetto al testo precedente, la Commissione avrebbe un ruolo anche di vigilanza e non solo di promozione rispetto alla garanzia della presenza femminile nelle nomine di competenza regionale. I lavori, introdotti dal consigliere Callegaris, sono proseguiti con l'illustrazione della proposta di legge da parte della consigliera Buna. A questa è seguita un'interruzione di più di un'ora in cui i consiglieri hanno valutato alcuni emendamenti proposti dal gruppo Lega. Tra le questioni più dibattute, la composizione della Commissione e i principi alla base della nomina. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Torna a crescere la cassa integrazione in regione, sul fronte artigianale si conferma anche la frenata della subfornitura, un rallentamento che preoccupa anche gli industriali e le piccole e medie imprese. La fase di stagnazione sta portando ad un aumento delle richieste di cassa integrazione, stando agli ultimi dati INPS elaborati dalla CGL regionale, sfiorano gli 11 milioni e 400 mila le ore di cassa integrazione autorizzate in Friuli Venezia Giulia nei primi 9 mesi del 2024, in crescita del 14% rispetto al 23 dopo la frenata di agosto. Settembre ha fatto segnare un nuovo balzo col 32% in più di richieste accolte confronto allo stesso mese dello scorso anno. I segnali più preoccupanti arrivano dalla meccanica e dal legno, con incrementi rispettivamente del 32 e del 44% rispetto alle ore autorizzate nel 23. Il quadro sta destando preoccupazione tra sindacati e associazioni di categoria, anche se non si rileva ancora un forte allarme. Il segretario regionale della CGL Piga prevede però che lo scenario possa aggravarsi già a partire da questi ultimi mesi dell'anno e richiama la necessità di un confronto con la regione. Dal fronte artigiani conferma la frenata della subfornitura al presidente regionale di Confartigianato Tilatti, che segnala come le aziende più dinamiche si stiano riposizionando su altri mercati e produzioni. Il rallentamento preoccupa anche gli industriali e le piccole e medie imprese, che tuttavia rilevano come il sistema sia ancora in tenuta, anche se non si esclude possa esserci un'onda lunga come già in passato. A pesare in questo momento sulle imprese soprattutto la recessione della Germania, ma sono anche le tempistiche troppo accelerate per la transizione energetica fissate dall'Unione Europea, che stanno mettendo in ginocchio l'automotive e il suo indotto, segnalano le associazioni degli industriali, cruciali a loro avviso le risorse successo del PNRR per aumentare la competitività delle imprese e del sistema. Il tavolo di confronto con la Regione intanto è sempre aperto, rammenta l'assessore alle attività produttive Bini, che lavora sulla programmazione futura con l'agenda Friuli Venezia Giulia Manifattura 2030, varata insieme all'associazione di categoria, un piano che individua le strategie di sviluppo a lungo periodo del sistema produttivo regionale che si conta di attuare già dalla prossima manovra di stabilità. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Oltre 40 anni di carriera in prima linea contro le pandemie, l'ultima il Covid, 20 anni fa a Trieste la SARS. Va in pensione il virologo Roberto Luzzati, professore e direttore delle malattie infettive dell'Ospedale Maggiore. Il Covid è stata la pandemia più pesante dal punto di vista emotivo, nessuno di noi era preparato a delle dimensioni così importanti. Sicuramente l'emergenza più impattante della sua carriera, il Covid-19, ma non è stata la sola pandemia che Roberto Luzzati, professore e direttore delle malattie infettive di Trieste, ha dovuto fronteggiare in 40 anni di attività. A fine mese andrà in pensione, ricorda quando, giovane, ha iniziato a Verona. Erano gli anni 80, la pandemia che tanto faceva paura era l'AIDS. È stata una pandemia importante, è sotto controllo questa infezione, ma non è ancora scomparsa. Ogni mese noi osserviamo qui a Trieste un nuovo caso di HIV. I riflettori mediatici si accesero poi sul suo reparto nel 2003, 21 anni fa, il primo caso sospetto di SARS in Italia, proprio qui a Trieste. Avevamo accolto una bimba proveniente dalla Cina con un sospetto molto alto di SARS-CoV-1. Per fortuna in un secondo tempo è stata smentita questa infezione, ma c'era stato un forte sospetto. Tra 15 giorni il professor Luzzati lascerà il reparto per tornare nella sua amata Venezia, città natia. Lascia sereno di aver trasformato il reparto da ospedaliero a universitario. Siamo diventati una struttura universitaria che si occupa non solamente di assistenza, ma anche di docenza, ma anche di ricerca. E i miei collaboratori penso porteranno avanti questi tre temi fondamentali. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sopralluogo della sesta commissione oggi al Polo Tecnologico Alto Adriatico di Pordenone, cluster che ospita 80 aziende, la cui missione è quella del trasferimento tecnologico alle imprese. Ma sentiamo il direttore Franco Scolari. Poi noto un sistema che è volto all'innovazione. Non distingue dipendenti, collaboratori, imprese, li mette tutti insieme, perché tutti insieme bisogna correre per cavalcare l'innovazione, perché l'innovazione oggi è lo strumento di competitività delle aziende. Cosa fa il Polo? Il Polo promuove attraverso l'innovazione la competitività delle aziende. I miei clienti sono grandi, medie, piccole imprese che devono comunque crescere e comunque competere. Usciamo un attimo dall'argomento, ma rimaniamo in tema. È prevista una firma di un protocollo d'intesa con Enea. È un vostro nuovo obiettivo? È un progetto sul quale stiamo lavorando. Io spero che vada a buon fine, ma è in cantiere, non è avvenuto. Enea è un detentore straordinario di nuove tecnologie, tra queste le tecnologie energetiche per l'idrogeno. La regione, che è un mio azionista, caldeggia questa cosa, ma io devo guadagnarmela. Enea ha bisogno di project management, ha bisogno di persone qualificate. Io penso che le persone del Polo siano altamente qualificate nella trasmissione delle nuove tecnologie, ma voglio che me lo dica un altro. Se me lo dirà con la firma del contratto, mangiamo il panettone. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. Diamo uno sguardo al tempo, cielo in genere poco nuvoloso sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 7 gradi, a Udine 9 gradi e 5 decimi, a Gorizia 9 gradi, a Pordenone 8 gradi e mezzo, a Tolmezzo 9 gradi, a Forni di Sopra 7 e mezzo, a Piancavallo 5 gradi, a Sappada 2 gradi e mezzo, a Tarvisio 1 grado e mezzo, sul Monte Zoncolan 0 gradi, sul Monte Lussari meno 4 gradi e 5 decimi, a Lignano e Grado 8 gradi e 5 decimi. Le previsioni dell'ARPA regionale: questo pomeriggio avremo cielo in genere poco nuvoloso sulla costa e sulle zone orientali, soffierà bora moderata fredda. Domani cielo sereno poco nuvoloso per velature, nella notte fino al mattino sulla costa soffierà bora moderata, poi borino. In pianura e nei fondovalle saranno probabili gelate notturne. È morta circa 2 settimane dal ricovero in ospedale la donna di 44 anni rimasta gravemente ustionata nella propria auto. Il veicolo aveva preso fuoco all'improvviso mentre la donna si trovava al volante. Le fiamme le avevano procurato ustioni di terzo grado sul 40% del corpo. L'incidente si era verificato a Palmanova. 2 passanti l'avevano aiutata a uscire dall'abitacolo. Subito soccorsa dai sanitari, la donna era stata portata d'urgenza nel locale ospedale per poi essere trasferita in elisoccorso al reparto Grandi Ustionati di Padova, dove è morta ieri. I carabinieri e i periti dei vigili del fuoco stanno ancora indagando per cercare di capire l'origine del rogo improvviso che ha intrappolato l'automobilista. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Trieste ha rafforzato recentemente il dispositivo di controllo sulla regolarità dei flussi monetari lungo la fascia confinaria, eseguendo oltre 300 interventi sulla circolazione della valuta che hanno portato alla scoperta di illecite movimentazioni per 5 milioni e mezzo di euro, l'applicazione di sanzioni per 334 mila euro e il sequestro di titoli per circa 245 mila euro. Il 75% delle violazioni sono state accertate in entrata stato e il restante 25 all'atto dell'uscita. I trasgressori, per lo più di cittadinanza serba, rumena e croata, sussistendo nelle condizioni, sono stati ammessi al beneficio dell'oblazione immediata, con il pagamento contestuale di una percentuale variabile calcolata sull'eccedenza rispetto ai limiti consentiti. Nelle operazioni condotte, infatti, è stata contestata la violazione della marcata esibizione della dichiarazione preventiva, obbligatoria per il trasporto di titoli superiori alla soglia di 10.000 euro, che costituisce il limite di franchigia. Sono passati dallo stato di agitazione allo sciopero operatrici e operatori Caritas del servizio cucina, refettorio e distribuzione pasti. Sciopero dall'adesione del 100%, interrotto oggi solo il servizio dei pranzi. Il motivo è il no alla cessione di ramo d'azienda del servizio verso la multinazionale Sodexo. Per USB l'affidamento a una multinazionale di un ramo importante dell'accoglienza triestina, quello della Caritas appunto, rappresenta un nuovo disegno dove chi non è d'accordo sui nuovi modelli incentrati sul profitto e sui bassi costi verrà sistematicamente escluso, si legge nel comunicato. In memoria di Giulio Regeni, ricercatore brutalmente torturato e ucciso in Egitto, Area Science Park ha deciso di dedicare una panchina nel campus di Padriciano. La cerimonia di scopertura questa mattina alla presenza dei familiari di Giulio e dei vertici di Area. Giulio Regeni nel cuore metaforico e fisico dell'area Science Park, al centro dell'Istituto di Ricerca di Padriciano, una panchina gialla ora commemora il ricercatore originario di Fiumicello, rapito, torturato e ucciso il 25 gennaio del 2016 al Cairo, in Egitto. Un punto di ritrovo, di scambio, di riflessione e di incontro con gli altri, questa panchina, inaugurata alla presenza di Claudio Regeni e Paola Defendi, papà e mamma di Giulio, che da anni si battono per avere giustizia. L'iniziativa è nata dal basso, spiega la direttrice generale dell'area Science Park, Anna Sirica, dalla volontà cioè di ricercatori e dipendenti del centro che si sono attivati tramite una colletta. I fondi non utilizzati sono devoluti come contributo alle spese giudiziarie sostenute dalla famiglia in tutti questi anni. Ma di Giulio deve rimanere soprattutto la passione con cui portava avanti la ricerca universitaria. Giulio era e resta uno di noi, ha detto ancora Sirica. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. Un team internazionale di scienziati è appena partito per l'Antartide per raccogliere sedimenti glaciomarini ai margini occidentali della calotta glaciale, che consentiranno di stimare l'innalzamento futuro del livello degli oceani. La spedizione, che coinvolge tecnici e specialisti di 13 paesi, si inserisce nell'ambito del progetto denominato Sensibilità della calotta glaciale antartica occidentale, a un aumento di 2 gradi centigradi, e utilizza tecniche di analisi paleoclimatiche per studiare campioni di sedimenti del fondale marino sotto la piattaforma di Ross, la più grande piattaforma di ghiaccio sulla Terra, estratti tramite alcune perforazioni fino a 200 metri di profondità sotto il livello del mare. Per l'Italia partecipano alla missione anche l'Università di Trieste e l'OGS. La missione in corso nel continente antartico mira a comprendere quale temperatura potrebbe innescare lo scioglimento della piattaforma di Ross, con successivo collasso della calotta glaciale antartica occidentale. È dedicata ai diritti delle bambine e dei bambini la prima delle tre giornate del premio giornalistico internazionale Marco Lucchetta, che si inaugurerà domani pomeriggio al Teatro Miela di Trieste con la mostra Diario di Bordo, storia di una nave da soccorso. Si tratta di un diario visivo che attraverso 18 scatti in formato poster racconta le missioni di ricerca e di soccorso lungo la rotta mediterranea alla frontiera di Trieste. Dalle 17 il giornalista Riccardo Iacona condurrà l'appuntamento di apertura della 21ª edizione del premio, intitolato Il diritto dei bambini e delle bambine alla speranza, un premio per illuminare le vie della pace, che vedrà protagonista Daniela Schifani Corfini Lucchetta, presidente della Fondazione Lucchetta Ota D'Angelo Hrovatin. A partire dalle 17.30 prenderà quindi avvio il panel intitolato Gaza, dove muore la nostra umanità. Alle 20.30 sarà la voce del giornalista, autore e attivista Gabriele Del Grande a risuonare al Teatro Meirella nello spettacolo Il secolo immobile, una storia delle migrazioni in Europa vista dal futuro. Sempre meno bambini e sempre più poveri. Nel 2023 l'Italia ha conosciuto un nuovo record negativo per la natalità, con meno di 380.000 nuovi nati, mentre la povertà continua a colpire i minori. Il 13,4% delle bambine e dei bambini tra 0 e 3 anni è in povertà assoluta e circa 200.000 bambini di età compresa tra 0 e 5 anni, l'8,5% del totale, vivono in povertà alimentare, ovvero in famiglie che non riescono a garantire almeno un pasto proteico ogni due giorni. In Friuli Venezia Giulia nel 2023 sono nati 6.976 bambini. Nella regione il 10,1% dei minori di 18 anni vive in povertà relativa, a fronte di una media nazionale del 22,2%. Sul fronte dei servizi educativi le famiglie incontrano molte difficoltà. Oggi meno di un bambino su tre dagli 0 ai 2 anni trova posto in un asilo nido con forti disparità territoriali. In Friuli Venezia Giulia la percentuale della copertura attuale è del 38,3%. Nel 2026, quando dovrebbero concludersi gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, si stima che l'offerta di servizi educativi per la prima infanzia salirà al 41,3% a livello nazionale. Tuttavia questa crescita rischia di non compensare i divari territoriali. In Friuli Venezia Giulia si stima che la percentuale salga al 45,1%. Inizia oggi a Udine il Fake News Festival, l'appuntamento dedicato alle bufale, giunto alla sua terza edizione, che andrà avanti fino a domenica. Tra i temi trattati quest'anno, le discriminazioni e l'intelligenza artificiale. Fermati, pensa prima di diffondere una notizia, resisti e proteggi te stesso dalla manipolazione. Sono i consigli della Commissione europea che da anni studia gli strumenti per combattere la disinformazione. Il Fake News Festival di Udine, giunto alla sua terza edizione, invece propone un antidoto, quello del pensiero critico che ci educa a filtrare le informazioni e combattere le fake news. Il curatore del festival, Gabriele Franco. Alimentare le nostre capacità di leggere criticamente quello che accade intorno a noi, le notizie che leggiamo online, il modo in cui ci rapportiamo a un'immagine, un testo, un accadimento. Per farlo servono competenze informative, servono cioè le capacità di guardare con una visione periferica, collaterale quello che succede, analizzandolo criticamente, informandoci da più fonti, cercando quindi di analizzare le informazioni in modo tale che possano poi plasmare quelle che sono le nostre scelte quotidiane, da quelle familiari a quelle lavorative. Molte delle fake news diffuse negli ultimi anni sono state create utilizzando l'intelligenza artificiale, che consente di generare immagini, testi, video e audio in modo molto facile. Un semplice algoritmo a portata di tutti, ma capace di diffondere contenuti ingannevoli e fuorvianti. È quindi importante sapere riconoscere i contenuti prodotti dall'intelligenza artificiale, conoscerne gli impatti anche rispetto a quella che può essere la nostra vita di tutti i giorni e sapere anche che questa tecnologia è controllata e governata perlomeno in Europa da un'importante cornice di regole, di norme. Da ultimo proprio la prima legge europea sull'intelligenza artificiale adottata negli scorsi mesi in Europa e che andrà a disciplinare l'uso di questa tecnologia a 360 gradi nella nostra vita. L'intelligenza artificiale però è diventata anche lo strumento che ci aiuta ad individuare con più facilità i suoi prodotti fake. Da questo punto di vista serve parlare di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale, educazione, cioè tutti i cittadini professionisti devono sviluppare delle competenze idonee a sapere di che cosa stiamo parlando, che cos'è un'intelligenza artificiale e come identificare i suoi contenuti, i suoi impatti, per orientarsi fra benefici e rischi. Trieste, Vaciuk, TGR, Friuli Venezia Giulia. Anche Pontebba si prepara ad una mutazione per un maggior turismo e la residenzialità in montagna. In un tempo di cambiamenti climatici in cui il vivere in montagna sarà sempre più una necessità anche di tipo climatico, con il progressivo innalzamento delle temperature. Abbiamo riqualificato il territorio gestendo la complessa eredità delle caserme dismesse, annuncia il sindaco Ivan Buzzi. Prima casa o casa di vacanza a Pontebba, il progetto ora può diventare realtà grazie agli 8 lotti edificabili in area completamente infrastrutturata e già dotata quindi di rete fognaria, acquedotto, illuminazione pubblica e strada d'accesso. Si tratta degli 8 lotti compresi tra i 650 metri quadri e i 1100 metri quadri che il comune ha realizzato nell'area dell'ex caserma Fantina. Lo sport basket in A2 a Udine vince in casa contro Forlì ed è in terza posizione in classifica. Un'ottima partita quella giocata dall'APU Old Wide West Udine contro Forlì, chiusa con il punteggio di 84-75. I padroni di casa, nonostante una leggera flessione nei momenti finali, hanno dimostrato solidità e concentrazione per quasi tutto il match. Forlì si presenta senza l'esperienza dell'eterno Daniele Cinciarini, 42 anni e vero faro della squadra. Dall'altra parte, Udine deve fare a meno del centro Pini. La partita è la quarta in appena 11 giorni per i friulani, ma non si nota alcuna stanchezza iniziale. Mano calda soprattutto per Ali Begovic, per lui 11 punti. Udine parte forte e accumula rapidamente un vantaggio importante, mostrando un'ottima prestazione di squadra. Anche di fronte a una breve flessione all'inizio del secondo quarto, la formazione friulana non perde il controllo, rispondendo con determinazione. Hickey con finta e tiro da tre entusiasma il Carnera, ma il terzo quarto vede salire in cattedra da Ross, protagonista assoluto del match. Le sue giocate portano Udine a toccare un massimo vantaggio di più 26, rendendo la partita apparentemente senza storia. Nonostante l'ampio divario, Forlì si conferma una bestia nera per Udine e il Carnera e prova a rientrare in partita negli ultimi minuti, approfittando di un calo mentale dei padroni di casa. La squadra di coach Antimo Martino chiude in crescendo, riducendo lo svantaggio con tentativi dalla distanza a soli 9 punti. A brillare è stato soprattutto da Ross, 17 punti a referto, ma tutta la squadra ha offerto una prova convincente. L'unico neo è stato il calo negli ultimi minuti, che tuttavia non ha compromesso il risultato finale. Udine sorride ancora, una vittoria importante costruita con una prestazione corale in un calendario fitto che non sembra spaventare i bianconeri. Prossimo impegno domenica, sempre al Carnera, contro Vigevano. Andrea Marusic, TGR Friuli Venezia Giulia. Vincente anche Cividale, che a Piacenza batte al Sigeco per 80-75. Settima vittoria di fila, condita dalla sofferenza, immancabile e democratica, perché non si fa differenza tra prima e ultima in classifica. Cividale rimane salda da solo al secondo posto, anche dopo la trasferta di Piacenza. L'andamento non ricalca quello di altre partite, perché è la Gesteco a prendere subito in mano il match. Una media realizzativa da centone con 9 punti di margine, spiegabile anche con un dominio al rimbalzo. Nei secondi finali c'è la svolta, Cividale perde palla nell'ultima azione, quella del potenziale più 10, e Piacenza segna da 3 con il tiro della disperazione di Bonaccini. Da quel momento è un'altra partita, la Sigeco trova precisione e coraggio, la squadra di Pillastrini perde colpi in difesa e in attacco, l'incontro diventa equilibrato e c'è il primo aggancio a 4 minuti dall'intervallo lungo, schiacciata di Dalmeida. La Gesteco però ha la consueta reazione con Ferrari e Berti e chiude il secondo quarto sul 40-35. Inizio ripresa tutto favorevole ai padroni di casa, che riescono ad agganciare i gialloblu in crisi difensiva e passano avanti di 4 lunghezze. In questa fase Dell'Agnello a suonare la carica con 5 punti preziosi che riportano il conto in parità. Deciderà tutto l'ultimo quarto secondo il copione degli incontri dei ducali. L'inerzia pare favorevole a Piacenza con Querci, Bradford e Bonaccini e con una maggiore presenza a rimbalzo. Dopo 3 minuti i padroni di casa si ritrovano sul più 4, ma Cividale ha 7 vite e si entra in zona redivo. Tentativi di allungo della squadra di Pillastrini vengono rintuzzati 2 volte, l'ultima a meno di un minuto dalla fine. Le azioni decisive maturano nel breve volgere di 15 secondi, un tiro da 3 del solito redivo, una palla recuperata in collaborazione con Rota che manda in contropiede il formidabile argentino per il più 5. Sull'ultimo errore di Bradford, Piacenza alza bandiera bianca. Sabato al Pala Gesteco arriva la Fortitudo in crisi di risultati. Paolo Roncoletta, TGR Friuli Venezia Giulia. E con il basket chiudiamo questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Laura Sarasini, per la parte tecnica in regia Carlo Morello e Mauro Ciccarelli. Da parte di Lara Zani ed Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.